adesso mi ha detto c'è tutto che hanno avuto. E Antonio mi sembra, no? Me lo ricordo, Francia. Quando era morto Gi Antonio, mi sa che. Se saltassi, poi io andavo dall'altro. E chi è, chi è? Beh, maestro Natalino. E maestra. Allora, sto parlando questa merda di radio, come va? Sembra che vada bene. Quel cobra, Gli ho aumentato un po' la radio. E funziona bene. E anda, e allora lo lascio così, dai. E vabbè, può chi va? Sì. Sì, e ve la stai combinando di bello? Mi sono seduto qua, mi sono seduto perché sono da ieri che sono ammalato, pensato forte, tutta la notte in bagno io, a diarrea, non ho dormito in tutta la notte, a rimane non ho manco mangiato, manca a sera, che non fa bene. Come mai? Allora ti ha fatto male qualcosa? No, no, un virus del resto, la dottoressa mi ha dato delle medicine. Ma ha bisogno mi quasi una sala glicemia burro che si mi desine, però se non rimiglio un gatta, c'è Gumari. Che medicine sono? Una imbustina che sembra fango. Dopo l'enterogermina mi ha dato per lo stomaco. La tachipirina devo pigliare, insomma, oltre a tutte le medicine che sto pigliando devo pigliare furuichi. Vabbè Natalino, se la devi prendere, non so come fa, purtroppo è così, capito? Casino è. Lui, a diarrea nera ero, ti sto dicendo cazzo, tutta la notte andando e torrendo da Romagna, tutta la notte, non ha giù dormito un minuto. Qualche virus intestinale ha preso, se come ero io, capito? Anche io ero così, sono stato 3 giorni dell'inferno. E fine menina, che mi ha contagiato è Concetta, a chi Concetta era prima di me così, ogni voce mi contagia e mi arruineggia, ragazzi. Perché te l'ho detto, ci vuole quella frusta e frustata forte, Natali, e nutturi. Tu devi fare, come ti dico io. Tu si avare maffatra. Ma va, non so così, ammazzallava o da bui? Sì. Prima di subito. Avanza prima di subito, allora. Deve essere che non t'ha inteso, che se no guai. Avanti, fammi vedere il telefono con zia Iole. Ah, ecco perché ha fatto finta di non sentire. Sì, sarebbe buono a mandarti a chi tu paese, chissà mica, lo sai. Ma infatti, è dalla gittesa, compreso, ma chi su è? Sicuramente non mi ha sentito a me. Cioè, beh, ma fai culo, mi. No, non ti ha sentito, stava parlando con mia zia al telefono. Elia, adesso sì ho sentito. Bobo, andiamo, beh, andiamo, Natali. Bobo, sto usando un super Cedric. Capagata, trade tutto sotto controllo qua. L'ho adattato qua, in questa radio. E va bene così. Aspetta un attimo che provo. Vabbè, ma mi viene Maria, vada. Ma voi. No, guarda che tanto io vado a prendermi la sigaretta, frate, che mi chiama. Fammi chiamata quando sei pronto, capito? Ehi, già sono qui, là, fuccidini, miglia di un caffè, là. Vai, vai, tranquillo, ti chiamo io dopo quando, dai. Che vado a prendere le sigarette dall'altra camera, capa, perché ho le sigarette nell'altra cameretta, capito? Fuma, fuma. Sì, va bene, dai. Che è, ho detto che adesso anda qui qua. Fuma, fuma. Io non lo sento a questo. Che è, Natali? Un bel bacio a Tiago Zero. Boh, a chi gente vira sotto? Boh, non sento nessuno io. E ne ho tolto pure lo squelch. Non lo so. Fuma, fuma. Fuma, fuma, da dì, tu mi. Vieni avanti. Fra, se non accorgi a me allora, se che antenna ti vuole lampada vivo. No, io sono cosa branco. Cazzo, ti ho mandato un messaggio, un cavolo mi hai risposto. Oh, e come fai tu le stesse cose che faccio? Ola, ola, ola, eppure qua è tutto a posto, Roggero, Franco, l'antenna di gomma deve essere entrata l'acqua. Cavagava e cavagava, come mi fai tu? Io il telefono, cazzo, non ce l'ho sempre appresso, no? Come faccio a risponderti se non so che mi hai mandato il messaggio? Ma chi è? Ma cosa si dice? Mica a me mi risulta quando tu lo ascolti o quando tu lo leggi, ma cosa si dice? Vabbè, non mi interessa. Franco! Che chiama, avanti! Non lo so, mi fai preoccupare. Veramente io sono andato a prendermi un cannone dalla camera. Gaga, ma roba buona, eh! E allora, frate, mi fai una roba che ti fa venire prunito, mi. Gaga, andiamo, Gaga, tutto Roger. Ah, come vi ascolti? Con questo Tanner più 3. Bella, bella radio, bella. Ma bella o fa schifo? Guarda, se vuoi ti registro anche. No, vabbè, sto usando un super sedere che nuovo nuovo, capito? L'unica cosa che gli ho fatto è il filo, perché il filo che c'era ha dovuto chiamare. E l'ho messo tutto nuovo. Comunque va bene. Ebbene, niente, Lino. Vai, fra. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova radio 1, 2, 3. Ok. Te l'ho mandato. Adesso l'ascolto. Che e già va bene, dai. Quanto può valere questo microfono? Ah? Ho detto quanto può valere questo microfono, nuovo nuovo. Ma dalle 80 alle 100 euro. Dipende dalle condizioni. Nuovo nuovo sui 100 euro anche. Tranquillo, tranquillo. Nuovo, nuovo, nuovo. Cosa già vuol dire? Non c'ho un grafico. Caspita. Tanne più 3, sì. Ma allora è Tanner più 3 o similare? Tanner Super Cederic con la cosa cromata. Ah, ce l'avevo anch'io. Ce l'avevo anch'io quello, sì. E il prezzo sì è quello, approssimativamente è quello. Sulle 100 euro, no? Sulle 100 euro, sì. E vabbè, c'è tutto il filo nuovo, è nuovo lungo. Lo fa ma con graffietto, è lucido, guarda, è bellissimo. Ma non è bello di questo, ma lo tengo. Ce l'avevo che la chiama Roggero. Dopo lo vendi, questo è meglio del coso, dell'MB più 4. Sì, sì, sì. Vabbè, adesso sto parlando a distanza, Sono un po' distante dal microfono. Ma gli andavano a te. Devo piazzare quell'antenna, cara. Questa merda di tempo non mi fa fare niente, cara. Tutto pronto, cara. Aspettando che faccio una giornata di sole, così la butto giù con l'antenna. E fai bene. Dove? Mi ha fatto quel lavoro lui. È una bomba dell'essere adesso. Quando la piatto la voglio provare. Cos'hai fatto? Che ho già tutto il materiale per poterla fare, capito? Per piazzarla. Solo se la fa sole, non posso fare nulla. Non posso salire praticamente sul tetto. Ah, è bene. Certo che sì. Anche perché quella è sotto. Perché le chiavi ce li ha lì? Ah, così è, cazzo, c'è il casino, c'è la voce, buia. A che tu si devi fare un doppione quando gli dai le chiavi? Cazzo, ancora non l'ha compreso. Dove c'è il tazzo? Ma infatti adesso come mi dà la chiave faccio il doppione. Il tetto credo che sia condominiale, boh, non lo so. Cappa il positivo, sì sì. È tutto capa, frate, tutto condominiale da parte mia, capa. Guardate il video. E adesso lo controllo, frate, cambio. Questa è la radio che ci avete in macchina, Luca, capo e capo. Ottimo. È proprio ottimo, ma gli devo fare ancora una cosetta, devo abbassare un po' il watt, capito? No, io questo mi sono fatto il collegamento del 60 ieri. Il cavetto così l'ho collegato al coso. 67 metri. Adesso questo lo faccio uscire con pochi fatti, guardate cara che adesso sta uscendo con un fatto. Adesso con due, tre, quattro. 5, cava cava e cava cava. Franco, e voglio vedere quel video. Senti questa piccola modulazione dalla città di Sassari che si chiama Preco, Preco. Capagara, segua, non stai uscendo, cambio, no, cambio. Allora, Franco, uscendo sto adesso. Non lo dammi come te. Forse sì, però qua, forse sì, però qua. Mi capo, mi ha fatto un casino, no? Oh, vabbè, via, aspetta. Prova. Allora, guarda un po', già sto uscendo adesso. Me ne accorgo che sto uscendo. Cava cava, sì, va bene, va bene. Come va questo MV4? Va bene. Di russo, va benissimo. Cavagava e cavagava. Va bene, si sente bene. Ma la radio chiara è, questo MV4 mi stava dando problemi poco fa. È la radio di un MV4, è Natalino. Già va bene comunque, dai. Già è amplificata già. K di positivo. È preamplificata. Cavagava e cavagava allora, dai. Diciamo che come modulazione va benissimo. Anda bene mela. Cavagava, sì, va bene. Dice che c'è un radio. Questa è quella che c'è con la macchina. Adesso ho portata su perché devo fare, gli ho fatto una cosa. Adesso sistemo il casino che c'è qua. Vado con questa a vedere. Allora, vediamo un po' se siamo messi bene. Guarda come questo piccolo antennino di gomma, va bene, sì? Yes, sir. Questo è cavagava, che cavagava è questo? Che studiare. Che tempo sta facendo? Stava facendo temporale a mezzogiorno. Però qui un attimo di merda, la carica, ce l'avete visto. Tutta la settimana di pioggia, è carino. Andate, gli era biglia e murona, ia. Cazzo, non fare quel lavoro, non posso fare, se non fa una giornata, non ha dubbiato il materiale, non posso fare nulla, non so bene. E infatti, non puoi fare nulla, no, aspetta un attimo il controllo, una cosa. Sì, devo andare in banca a firmare dei documenti. Prima solo uno. È troppo. Cazzo, roba di bicchiere di modulazione, vai, sta cosa. Non è che l'altro microfono, Natali. Non ne ho altri per questo. C'ho questo qui. C'ho l'MP4. E cosa vuoi, Buni? Non l'aggio, l'aggio un microfono normale, boh. Allora no, lasciali quello. Perché non va bene questo? Va benissimo. E no, perché non hai detto di cambiare microfono? Perché poco fa ti stava dando problemi. No, ho già provato cos'era l'inghippo. No, già va bene, dai. Vabbè, sto parlando distante. È mia, adesso sono distante pure io, guarda un po'. Distante. Va bene. È tutta la lunghezza del braccio lontano, capito? Sì, va bene, così c'è, anche io ce l'ho così. Con questo amplifica un bel questo microfono e devi tenerlo a bada, se no è un macello. Ma guarda, io devo fare quello spezzone con i monarchi, no? Ci dici nonna e se la pigliano, lui l'ho recuperato. Devo controllare in campagna, ce ne ho qualche altro, capito? Qualche altro spezzone? Sedia, c'ho il cavo originale che ho, capito? Però uno l'ho recuperato di quelli scorsi. L'altro invece deve essere in campagna, da qualche parte, capito? Aspetta. sai che devo dare una cosa alla 50. No, dai, che... Stavamo discutendo delle medicine. Quando Dio dice i suoi doni. A chi bisogna abbigliarli? Come si può pensare di venire in città? A orario. Pappari, pappappappa, e no che torna candeva, pappari, e piove. Dica, sono roba di... sempre piovendie. Vabbè, non ti fa fare nulla questo tempo, è un casino. È una pioggia di merda. Ehi, lo so. E dove vuoi qua? E così e bombi. Io ne ho tolto anche l'antenna a pranzo, perché ho sentito i turni, ha giusto cazzo di far via che qui, mine no, che succede un macello. Poi ieri notte Marade Bonus dopo WDC a chi da Cesare in Ghisuttica ha fatto esterno Edu. Era bisogno di leva a nastro, giuta in facciata. Guarda, sono dovuto scendere a chiudere il contattore. Dimmi tu, domani mi si piglia la bronco bolmonice tra me e me a giudizio. Invece già è andato a re. No, ma è tubo di cartone, il contattore a marcio. Ha messo un tubo esterno lui, per farsi arrivare l'acqua a casa, no? Perché deve essere, c'aveva l'impianto andato a fanguarla come noi. Però lui se l'ha messo esterno e dare i raccordi che ha nella bisogna di tutta Revari, ha già dovuto usare il puntalori. Ma non ti ho detto nulla. Per carità, allucinante. Ehi, ieri notte tardi della gente a Bozzi, ha giunto della gente che si ragionamenti, a chi noi non usabbiamo che la bisendeva. Ma dimmi tu. Ti ci manco, cazzo. Già non ve. Il bello padrone pare di fare un foglio e ve lo devi firmare. Concetta, se no non puoi entrare, da che se no lo denunziegiami. Hai capito? E con tutto che non si sa che fine abbia fatto questo. Ma non l'hai più visto. No, no. Chissà un discerto che verrà a Duizio. E il padrone di casa si vede un tratto in essere, non può entrare. Perché? Perché se no è violazione di domicilio, gli hanno detto i vigili urbani. Lì da quelli del vicinato si fa firmare un foglio, come che sta perdendo acqua, e cosa là può intervenire, era lì tu. Hai messo tutte noi in una brutta posizione. Per questioni di emergenza già può intervenire. E tocca aprire la Ianna. Dovrà venire con un fabbro per aprire la porta, staccare la luce e l'acqua. Ma dimmi tu, sa come si verrà fatto l'appassamento visto? No, sicuramente ricordo che chiamare la polizia, entrare con la polizia. Ehi, ma ci vuole il foglio firmato da Concetta, perché ci vuole l'emergenza per poter entrare, se no non può entrare. Già rimandare la neanche pattuglia dei vigili. Ma lui che fine ha fatto non si sa. No, non si sa che fine ha fatto. L'hanno portato via in ambulanza e non è più tornato. Anche i vigili del fuoco, quando sono andati a recuperare il gatto, si sono dovuti fare autorizzare, se no loro senza il padrone non possono entrare. Boh, magari è morto. Ma non si sa nulla, però si è morto o non è morto. Per il negozio di Scusato, si tirano in ambulanza, non è più turrato, è già due mesi, c'è Assuria. Lui ha messo un tilli fuori dalla finestra, cioè, no? E perdeva da lì, dai raccordi di quel coso, l'hanno fatto male, evidentemente. O non hanno stretto bene i raccordi, comunque stava perdendo acqua. E allora abbiamo chiuso il contattore noi. Però c'è da spegnere la luce, là dentro l'appartamento, e tutto. Avano, si sa, fa cos'è la vicenda e la gaglia, e quindi ci avrà anche la valvola di ritegno dello scaldabagno andata. Adesso non so cosa può succedere allo scaldabagno, perché non c'è acqua. Ma la corrente non ce l'ha su. Eia, finché non entra il padrone a saccarla, ce l'ha la corrente. Al limite si ribrucia la resistenza, no, fra? Giusto, senza acqua, sì. E è meglio che si ribrucia. È così fine. e poi manderà gente a pulirlo quell'appartamento, che sarà un'indecenza, chissà, sta una roba pratica, ti viserà Brento. Io non abbasso a comprendere. Dimmi tu, il padrone deve essere autorizzato, ma il padrone di casa, amico. Certo, perché lui ha affittato un appartamento dove c'è l'autorizzazione. Se no non vetri. È così, capito? E vi l'ha detto il vicecomandante dei vigili, al padrone di casa, che è andato ai fuimassi, a chi si vede contratto in essere. Il padrone non è privato, finta che non cade il contratto, non è contratto. E allora ci vuole un foglio firmato da mia moglie, che è quella di sotto praticamente, che gli stava causando danno con l'acqua. Vabbè, ah sì, è così, in definitiva è così. Vabbè. Oioioi, per carità. Quello che la sei su comparato di spiaggia con la bolognese è di bussato, quando tu asme, a me non mi avessi mai, io me ne andavo giù e io buco. Come ti vengo di buona, ma vivo. Tutte le volte ti chiamo, non stai bene, non hai problemi, ha detto magari non sta bene. Io vado di mattina presto, Natalino. Ha giudito che andassi a pupe da Zurrada, ma vivo. E mi andò a piccare pure io. Cazzo, non so che andare, una voce. Io vado la mattina presto, se tu te ne alzi la mattina presto, perché poi alle 8:30 te ne andati, non mangia più, devi andare lì. Devi arrivare lì alle 7:15, 6:30. E poi a 8:30, no, come non quattro te ne vai, perché poi non prendi più niente. Ho preso un bel po' di mormolo, lattine, la cessara, godetto, la galleggiante. La galleggiante della spiaggia, esatto, devi vedere, è una spigola, non grande, sui 400 grammi, cava cava. Sì, andrà bene meda. Fino a presto, c'è aria fresca e poi... Poi si piazza male sempre, quando arrivo a casa una bella alle 10, che mi sta piazza molto di levante, o brecale, o levante, o maestrale. No, la vado a fare le giornate come si deve. Adesso mi rimetto da questa influenza che mi ha ridotto a uno straccio. Ma è fuettato, sì. E allora? Che sorpresa, non ha giubilato il virus, cazzo, tosse, cazzo, nausea, diarrea, di più ne ha più ne metta. Com'è il compito? Allora, devo pigliare una caterva di medicini, oltre già, chi figlio? Mi stanno a battazzare, la glicemia, il segno. Ma perché te la dopo le prende questo virus? Nell'aria, si esci! Si esci di lì, tranquillo. L'hanno detto che c'è un virus. Ma ha cominciato a pigliarmi mia... l'altra notte. Non ha giù dormito un minuto. Tutta la notte andando e tornando da Rovagno. La diarrea. Non ne potevo più. Guarda che mi aveva fatto mal di pancia e diarrea addirittura. Tutta la notte sveglio anche io. Però febbre è un malato, nessun sintomo di questo. Però febbre è successo. Manca a me freba mi ha dato. Perché vuol dire? Domani si balza, vin domani non potevo usciarsi, dopo i sendi, meglio la morte. E lo ha fatto a me, dei crampi allucinanti, guarda. Cazzo, ma che terza di medicina la dottoressa mi ha ordinato? Dimmi tu. Concetta, la colpa è del Concetta, è sempre del contagio, Infatti non so così ammazzare la vado a voi. Io c'ho quel nervo, mi sono dimenticato. Ma quando mi la reghi, cazzo, io la devo bruciare la chiccia. No, la cintola, oppure c'è una cintola della Lipsi, quella larga. Mi pare che è 8 centimetri di larghezza. Aspetta quando vieni a casa che te lo do io. Sì, col nervo figlio a Natalino gli devo dare. Ha detto che te ne dà un po' di frustate. E se no faccio una brolunga di luce elettrica, non andava a Isav. Fatta a cosa? Me! Che mi sta strangolando! Eh, devi farlo a nudi però. Ah, con i nodi buco, in modo che entra meglio. Così non lascia scesi i segni. Perché se tu l'avessi liscia ti lascia scesi, invece con i nudi. Mi fai i nudi a tutto il favorito, che poi frusti. Gira lì la ragione buro du. Poi nel caso, se no, se per non lasciarli scesi, prendi un bastone di ferro. Non rompete le gomma di quella morte, ma delle trappaglie di tutti. E mi posso il gatto a nove code, mi posso. Mi posso nuovi codi, curi sicuri no, di cazzo. Allora me la posso una brucia così. Allora manco la brucia, una voce va a tutti. Allora, me la fa così. No. Ehi, non mi dà la rovina sui vivi. Tu a Lucia così la bruci, quando parli di Mara. Allora. Ah, ecco, e allora io pure mi posso... Il gatto ha 9 code, mi posso. Se no ti bagni le manine. Ma tu lo sai che le mani quando sono bagnate attraono di più. Oh, yeah. Mamma mia. Il primo non vi crede a niente, magari si crede che mi brucia ma mio. Ci mancherebbe, oh, yeah. Non è scherzare ogni tanto, no. Mi adesso c'è calmata l'acqua, adesso non fa più bello, però già non fa già l'asciaia a per l'affaella, se non prende più nulla di più bello, fa ripare. Poi ti sto dicendo che c'era, ho sentito a pranzo, c'erano i tuni, ne ho staccato i tuni e ne ho staccato l'antenna, non si sa mai, a giudizio. Vabbè, è un casino, sarà. Beh, andiamo dove andiamo, Natali, un casino, oh già, sempre prendeva, no? Questo guidare, allora potremmo stazionare. Una 5 stazionari. Scusa, io non so come vendi nulla, ero capitelli con mia moglie. Ma se me l'ha portato ero per 60. Ah, ma non ero io allora. Sì, ero capitelli con Concetta. Avevo ragione, c'era la portante. Sì, la biglietta. E cosa avessi chiesto? No, non c'è problema, mi si pone l'importante. Ehi, mamma non me la frega niente. Forse hanno chiesto chi vuole va. Come? Non venderò la molto ci vuole. Si pone l'importante. Sapranno come comportarsi. Non la stessa di Michele, dove c'è di tranquillo, non c'è problema. Già mi divento io da voi sotto a casa tua con la macchina, non ti preoccupava. Preso mai, da voi mi divento io sotto a casa tua con la macchina, così non fa vedi nulla. Tranquillo. Quella rimane vera, fra, non è importante a tutti. Sì, tu non ti preoccupare di aver lasciato a casa tua e non mi va a vedere più, ecco. Sì, ma la Rai, mi ribassa la gamba. E tu si crede che passi in cassa, mami, passa Luca, passi tu, oh, problemi no, finè. Ma va bene, ma con lui, guarda, ma quando fa la portante non fa vendata. Ma questa la portante ha pure vendata, tu preso una storia. Ah, io la verità la metteva sopra di te e non l'ho sentito parlando. Però dopo già me ne sono accorto che metteva la portante pestando, capito? Siamo pronti a cominciare da questo. A che pezzo di passare a me, compreso? Dimenticavo lo quasi, sei in mezzo, tu non puoi mai passarti. Il corpo. Da qui attacca il gigetto, ma poi Natalino quando mette la portata, era con gaglia di muso, no? Invece ti volevo la fare a pizzare, cioè. ci dico niente imbecille così. Infatti io non l'ho sentito, però già non c'è problema. Se me la gente va che va giù le cuffie. Infatti, io vado giù la televisione, no, chi ce ne ha mai dentro i miei mogliri. E non l'ho sentito, io ho sentito solo quando stavo aspettando. Tu. Cosa cazzo buono era importante per Duvizio? Giulia. Franco lo sa perché l'ha sentito parlando. Io non l'ho sentito, io ho sentito solo che stava attestando quando metteva la portante. Ma non c'è problema, si è detto che si diverte Franco con la macchina sotto a casa sua, così non ci parla più. Giulia, così è Giovattalino. Cara gara, e poi che uscire a fare come c'è davanti per campagna, andare a controllare il cane, cazzo, e poi morire la rire. Ce lo defendeva. Lo so, purtroppo è un macello. Allora, prima di mangiare mi devo misurare sul cavolo della glicemia, per avere un bel assa, cazzo. Devono essere queste medicine che me l'hanno fatta salire. Oh già, ma le medicine te la possono far salire la glicemia? Sì, dipende che medicine sono. Sì, possono farla salire. Per dire, il cortisone la fa salire. Ecco come, me l'hanno fatta salire a 250, ragazzi. Me l'hanno fatta salire stamattina. Tra sciroppo e dai sagaterba di medicini che immaginando. Allora, intanto i sciroppi non li devi prendere, perché i sciroppi hanno zuccheri e per i diabetici non vanno bene. No, questo lo posso prendere che senza zucchero, è fatto apposta. Devi mangiare ciambelli, roba così, pesce, capito? Verdure. C'è cuoco, questo Natalino, per quello che c'è la glicemia. A chi la glicemia, Tutta colpa di Luca, è tutta colpa di Luca, se la piglia sempre con me quello. Quel Luca Fuggioni. Cosa vuoi? Io do anche il numero di telefono. Senti, per problemi hai, tu perché sniffi la bamba e qua ti passa la glicemia. A chi la cappadoio? Quello tu lo sai. Sai quando uso la bamba mi fa salire la pressione. Sì, se uso la bamba è come che mi punti la pistola alla tempia. Mi fa salire la pressione e mi ammazza. Ce l'ho già alta di... per me. Da me ce l'ho già alta la pressione, sono iperteso e se prendo la bamba guai. Allora, vabbè Luca. Vabbè, che bello che... Che bello. Prendo la limone di qua, vita mia, fratello chiaro, che è... Ecco, ma oggi non ha lavorato, nulla. Ma tornami. Oh, va, Sufra. Sacca tua. Franco, anche su va a vedere la miseria, ma se guardi le grattelle, io non mi so chi. Va la grattina, va. Luca, tu lo passi, alla grande. E la cassa bossa è tutto efficiente. Qualcuno non sa cosa fa. Se vuoi che la gente non sa cosa fa, non fa tutto in faccia. Allora abbiamo la portante, compreso Luca. È così, capito. Guarda, se lo passo, Natali. Comunque da me fa non passi, Boh, cazzo buona secca, bassona. Guarda dove vai adesso, 1, 2, 3. Passi. Vai Natali. Da me passi, Fra. Allora che c'è la casa tua, Luca. Qualcuno mi entra a Marì. Da la piazza è casa tua, dai. È già segnata. Fuscelli. un bel forte, boh. Vedi se passa adesso. Fischiato, passa, un bel forte. Passate al 12, canale 12. Oppure l'11 alfa. Canale 12, canale 12. Ma che cazzo è? È a muro, scendi. E sto anche fischiando, hai visto? Ma che te lo vado a prendere, guarda. Ma cosa la fatti? Naturale, me. Ma c'è preso male il band, cioè, compreso. Ciao, non c'è nessuno, però non puoi le balle qua, veramente non ho parole. Ma non mi vuole dar più, me. Ma va per quella macchina, sotto casa sua, e tu vedrai che lui ha finito. Ma... Invece bisogna farglielo all'improvviso, quando lui si mette a parlare, tac, portante 9,60. Così impara. Notevole capacità di resistenza. No, secondo me bisogna andare sotto casa Giulia, anziché portante 9,60. Ehi, sotto a casa sua, con la macchina, non ci parla più. Dai, ma uno che disturba non parla, capito? Che senso ha? Perché vai e ribussi la porta. Oppure ribussiamo la porta, non c'è problema. Pronto con la commissione. Io ci sono, ragazzi, sono qua, però non posso parlare perché sto prendendo una targa. Sono sempre qua. Qualcuno gli ha agganciato l'antenna, pure l'ha attaccata alla macchina e l'ha portata via. Non c'è problema, no, per quello. Lotta contro la violenza di genere. Sì. Sì, ci bisogna farli così. Naturale, la tariffa la bassa. Sì. Per riprendere. Sì, arrivo più luci, sì. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Già stai uscendo, già. Luca, chiamami per favore. Ehi, ma tu che fai con la porta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, oh, oh. Cazzo, non c'avevo il garage attaccato, capito? Vedi, come tu entri lo spino... Franco? Qualcosa? Come ti anda, dai? Lì mi sta arrivando fondo scala, guardi che mi sta accendendo tutte queste lampadine qua. Cosa saranno queste lampadine? Ah, boh, non lo so, signor Michele, guardi il segnale adesso. Guarda un po', Franco. Tutte accese sono queste lampadine laggiù, tutte quante, boh. Io non sento nessuno, ho messo lo squelch. Sento solo a te che mi arrivi quando scala. Ho sentito la tornata, è buona per lì. Qualcuno mi sta andando male l'alimentatore, deve essere. Ciao, adesso sì, però c'è la tornata sotto, controlla. Allora, ti devo dire una cosa, poco fa ero io che non uscivo sicuramente, non mi stava funzionando il microfono, capito? E stavo controllando, pensavo di non uscire, invece stavo parlando e sembrava che se si mettono la portata e mica se usci in macchina fa bidare. Va bene. La mattinata vedo tu perché ho sentito la tua voce, capito? Perché io sei stato ascoltato sotto cuffia. Cosa? Se ti stavo ascoltando sotto cuffia. Attimo, ma... Secondo me quella tradizione c'ha problemi. Tu non paga, io non lo sapevo, era lui, sicuramente se gli ho bloccato il microfono, però sta uscendo, va più. Io l'ho riconosciuta dalla voce, ma tu non è successo niente, tranquillo. Vai, Natali. Vuol dire che è difettoso quel microfono. Magari c'è il PTT che è difettoso e se non esce. Torra, cazzo. Torra, ogni tanto viene una, non lo sai, un chiapparito. No, avete fatto in due. Allora Gianni che mi ha calpestato. Ha già detto, se noi si subito ti ne va sé. Fino a farsi il contatto, non preme bene lui. Cerca di mettere uno spessore già. Almeno come lo tocchi subito esce. No, non ho parlato io Natali, era al telefono. Al telefono vedi. E allora io non ho più capitato davanti. Qualcuno mi ha calpestato però. La sorella. Ma non ero io. Capagava. Hai capito Fra? Era una cosa involontaria, non era che l'ho fatta apposta. Ma quello non so problemi già. Tranquillo. Non è immaginata comunque. So come succede, va bene. Riprendi Natale. Non mi sta dando l'MC60. No, tocca il filo, sicuramente c'è il capocarrotto. Praticamente rimane la portante inserita. Come inserita? Non è fare mai inserita. Ma è che c'è il box inserito. Guarda che è il box, perché quando stavi parlando al telefono ti sei sentito, mio Gianni. Guarda, patrò, ciao Giulio, buonasera. Sicuramente c'è il box inserito già. Ciao Franco. Ciao Giulio. Così, ha sicuramente il box inserito. Lui parlava al telefono e invece partiva al box. E poi c'è più qualche alternata sotto, no? Va bene? Quello era giù, sì. E appunto già, ma io l'ho capito poc'anzi che era così, perché sentivo il muovere del microfono o qualcosa che stavi toccando, che faceva un fracasso del diavolo. Siccome adesso io ho una registrazione che mi è stata mandata, l'umore che ha fatto dopo successivamente alla registrazione che mi hanno mandato, ho sentito lo stesso rumore io, dunque ho capito subito che eri tu inavvertitamente avevi dei problemi al microfono. Rimaneva inserito, capito? Rimaneva inserito il microfono. E appunto, sì, no, ma appunto io avevo, cioè io ho detto, ma una portante così forte che mi copre tutti, registrazione con vari rumori appunto di quel momento, no? Successivamente, subito dopo aver visto la registrazione, il filmato, il video, in poche parole, ho sentito gli stessi rumori identici e appunto ho capito che eri tu che avevi quel problema lì del microfono, hai lasciato il box aperto e allora quando tu fai dal telefono partiva appunto la modulazione, tutto lì, ma niente di grave, comunque. Vabbè, chiedo scusa, non è che sta, non è da me, Giulio, fare queste cose, già lo sa. Eri già pizzicato, Giulio, perché, ma Giulio, mi scusa, Gianni, perché ho tolto il piede, sono passato lì la fondo scala, capito perché, ho detto, la portante era già individuata, invece era il problema di blocco, non è successo niente, è già, tranquillo, può succedere. Ok, dai, riprendi Natalino. Ciao Giulio, ben entrato. Cosa vuoi ti dica? Sono cose che succedono, sì. Sì, ma è così, in effetti. Ciao Natali. Ciao Gianni, non ti pensare perché io non sto pensando minimamente che tu lo stavi facendo apposta e ci mancherebbe altro. Tanto più che ero appena arrivato io qua, se vuoi immaginare, io non c'ero nemmeno, ma ho fatto acceso e ho sentito subito tutto il trantram che ti ho raccontato. Ma non penso minimamente che tu l'abbia fatto apposta, nella maniera più assoluta. Ci mancherebbe altro. Magari fossero come tutti come te. Vabbè, dai, tu non è successo niente, vai Franco, lo riprende, vai Gianni. Un attimo solo, Giulio, che mi ha sentito un secondo. Ok, già, d'accordo, dai, vai Natali. E cappa, il tuo cavolo di telefono mi rompendi di cattoli. Mi rompendi. Ma. A me ogni tanto me ne arriva una di quelli dalla Sri Lanka, dalla Tunis, che telefonano di Vodafone. Io infatti se non vedo il nome nativo non rispondo nemmeno a quelle telefonate o Natale. No, è che stanno funzionando male questi telefoni da un po' di tempo a questa parte. Cazzo, via, non arrivi poco segnali, no, boh. Ma stanno funzionando veramente male questi cellulari. Lo so, infatti anche internet ogni tanto sparisce. Da quando hanno fatto questo sistema nuovo, 5G o cosa si chiama, è un casino questi telefoni. Purtroppo è così, loro le metteranno a posto, magari sono ancora in fase di sperimentazione, speriamo che le mettano a posto. Stanno facendo dei casini in giugno, follia. Sì, stanno facendo casino con tutta questa telefonia, proprio non è possibile, non andava bene come erano prima, no, hanno dovuto metterci mano per fare casino, vabbè, comunque, forse hanno delle balle di biase che se ne frega tanto a questo punto, vai Fra. Infatti diciamo che fanno quello che vogliono loro intanto, ma allora aiuto di insisto, ora è fatto di su YouTube, ogni tanto che li prendi, ti cucino una marea di sasso. Sì, ogni tanto è così, vabbè comunque, tu sai che le cose quando vanno bene poi a un certo momento li modificano per andare peggio, a me non dovrebbero modificate per andare meglio, invece lo fanno sempre peggio. Incredibile, va bene, vai Natali. È che stanno abbandonando il 4G, stanno abbandonando, capito là? E quindi è per quello che stanno funzionando male i cellulari a 4G. Io 5G non ce l'ho e non me ne compro. A chi ha già mandava i ghiccio, se andava, se no circolava come, che non andava più. Infatti, cosa c'ho qua? C'è un basso per telefono, ne ho già una decina, ne ho tutti quanti dismessi, proprio perché da uno sempre per avere uno migliore, ma alla fin fine, magari se lo va a levare la passare di là, tutto sommato che il telefonino serve solo ed esclusivamente per telefonare e basta, poi per giocarci ci possiamo giocare in altri modi, al limite mi compro un tablet, che io ne ho un altro nuovo da poco, proprio da poco, esattamente da nemmeno un mese fa, anzi sì, un mese e due giorni fa, ne ho uno di tablet 285 euro pagato, nuovo, bello, grande, però tutto sommato il telefonino è meglio metterlo da parte per giocare, insomma, ecco quello che intendo, vai Franco. Ma se ci butto questo, torno ai vecchi telefonini, ai vecchi tutti, ogni cosa abbiamo in prima. Tanto mi sono lasciato per trattare, ma mi va tutto assai l'internet. Ma se sino a me, figurati, io l'ho dato solo per telefonare. A mia moglie l'avevo comprato un tablet, 350 euro. Cazzo, che fate pure da telefono sul tablet? Vì ce l'hai sul tablet che fa mia moglie? È poco umano, via. Ma cosa cavolo? Fuma una sigaretta in giro. Come non funziona più, vuol dire che telefono con quello di casa. Ma cosa rubago? Che impoveriscono la gente, impoveriscono con le sue invenzioni strane. Comunque, vai Natali. E infatti a mia moglie gioca amico un tablet, sempre un tablet in mano, 350 euro avevo pagato quel tablet della Samsung. Io sto guardando che... Natali, io ne ho uno nuovo che mi è stato regalato praticamente per il mio compleanno un mese fa praticamente, no? Ed è un Lenovo 285 euro e più altre 15 di custodia per tenere praticamente 300 euro di tablet, che poi tra l'altro ce l'avevo già, solo che quello che mi hanno regalato adesso è ancora più grande, per cui già va bene, dai, il regalo è il regalo, ma per dire no io non lo volevo nemmeno, penso un poco anche perché ce l'avevo già, però il regalo lo devi accettare, vai Franco. sistema c'è il Samsung, il tablet della Samsung, però per l'altro non mi ha comprato, se funzionava benissimo, c'erano degli anni, non è problema. Io sono rientrato, ragazzi. Ma magari. Allora tu dici già, dai, visto che sei rientrato. Allora, la prima cosa che io ho pensato che fosse il fulmine che me l'avesse bruciato, perché faceva quando l'accendi. Qui c'è un rumore di Rubox. E cosa risapive? Deve essere che spolverandolo l'ho toccato senza volerlo. Se tu te lo lasci inserito il Vox, quello continua sempre lì, però allo stesso tempo c'è la portante inserita, è un problema quello già. Devi stare attento, controlla le luci di coso, di avviso che ci sono nel frontale, perché quando si accende il fende si accende anche una lucetta che significa che è in... Sì, esatto, dopo io me ne sono accorto di quella lucetta, dopo ci ho fatto caso. Però io talmente ero spaventato che pensavo che fosse il temporale che mi avesse bruciato tutto. Però il box lo puoi regolare da dietro, volendo, Gianni, capito? C'è una prima dietro, lo puoi regolare come volete. Ma sì, ce ne sono tanti trimmer per regolare il box, non ne ho mai usato in vita mia. Sembrava tutto a posto, solo che praticamente premevo la portante e non andava. Ho messo l'altro microfono e andava. Com'è possibile che col microfono normale, ma con l'MC60 non andava? Te lo spiego io, perché l'MC60 anche da lontano riesce a captare le parole, le voci, eccetera, il rumore, eccetera. Mentre invece col microfono manuale, quello normale suo, se non te lo metti vicino alla bocca non riesce a captare più di tanto, Gianni, è quello il problema. No, ma ti volevo dire, attento a quelle lucette, perché rimane inserita sempre la portante, no? Tu non te ne accorgi, essendo inserita la portante ti può bruciare i finali, devi fare attenzione a quello, Gianni. E adesso che lo so, vabbè, però nel momento, sai, facendo questo rumore, non uscendo di radio, non si muoveva manco lo smitta, niente, ho pensato che fosse bruciato finale. Perché lì per lì uno ci pensa, no, è ovvio, ma comunque adesso lo sai, è meglio che queste cose quando succedono che le diciamo noi stessi, che abbiamo un minimo di esperienza, dunque danno una mano a chi ha qualche problema o qualche dimenticanza così anche senza volerlo alle persone che magari non in quel momento non se ne rendono conto. Bisogna fare attenzione, vabbè, dai, Natalia. Uia, il mio già semplice Vox non ne ha, tanto che potrebbe, quindi, ma io non ne ho mai usato di Vox in vita mia, la verità. Ma Natalia, questo che è stato premuto non volendolo, sicuramente spolverandolo, l'ho premuto senza volerlo. Oh Natalia, dunque uno non se ne rende conto perché non l'ha usato e non ci pensa, e invece c'era un motivo, insomma, ecco. Vai Franco. Ma io non ho immaginato subito che aveva il box, sì. Poi che rimane accesa quando parli, praticamente la luce rossa della portante. Io mi sentivo incazzato, fra, però pensavo che fosse qualche di un altro. Infatti la te l'ho detto, chi è che sta mettendo la portante? No, boh, non lo so, Franco lo sa. Viene esaminato, t'abbia inteso, e che cosa emerge? Io non lo sapevo perché non ti ho sentito. Emerge, ho sentito solo la portante e buh, scritto anche nell'ordinanza, e su tac tac tac, un milione di miliardi. Ma non mi difende già, ma se ne volete quadro numero, praticamente l'ho pulito questo apparecchio qua col pennellino, qualcosa, con uno straccio lo stavo spolverando. Sicuramente involontariamente l'ho toccato, capito? Faccio una giornata, ma c'era il box inserito. Qui si accende proprio la luce dove c'è scritto Vox davanti, quando tu lo attivi, capito? 40 minuti di interrogatorio. E poi ti rimane inserita, quando inserisce la portante, la luce è rossa, appunto. Già lo so, però nel momento io pensavo che fosse la portante fissa con la luce, capito? Che ci fosse, infatti ho toccato il locco a vedere se era quello che era inserito, invece non era quello lì. No, ma sta lì, la luce rossa si accende quando va in trasmissione al box, quando smette di modulare si spegne. Ehi, lo so, ma anche la luce Vox, dove c'è scritto Vox, che ti rimane inserita, quando tu lo attivi, tu prova a vedere, quando tu lo attivi ti si accende la luce Vox nel pannello frontale. A me non mi si accende il saluto di tutti. Davvero, in quello mio è così, quando c'è, accendi il fende, quando schiaccia dal pulsante fende si accende, e poi vuol dire che è pronto a parlare tranquillamente. Poi l'aggancio e lo sgancio, c'è chiaramente, ma tutte le volte che parli o qualche rumore eccetera, però la portante è già inserita. O fra la pista è parlando del 440, ma non c'è il campo, è il 140, non ce l'ha la farina. Vabbè, questo non lo so, questo non, quello non lo conosco, però so che in linea di massima funzionano così. Vabbè, dai, non è successo niente, comunque ci mancherebbe. Ma comunque è bello parlarne per il semplice fatto, in modo che uno gli facciamo un coso, l'info, in modo che uno possa controllare, vedere e capire per la prossima volta, è importante quello. Vai Gianni. E infatti, serve tutto di lezione, c'è sempre da imparare, dai. Cioè non ci ho pensato, lo sapevo, ma non ci ho pensato, capito? Non ci ho pensato proprio, ho pensato che fosse con il cavo del microfono, che c'era qualche cavo interrotto, oppure qualche fulmine che mi ha bruciato tutto. Ah, assolutamente, perché anche addirittura tu c'è il flop. Il flop è tu lo tieni per un colore di schiacci e lo ti fa andare indietro la frequenza. Ok, tu c'hai il ritmo, praticamente ti puoi spostare dei filetti, poi c'ha un mega e le altre cose. Quindi si accendono. Invece il box si accende solamente il portante, nel 70 o sia il 140 uguale, invece sul 440 quando tu schiacci il box, si accende il proprio box. Forse il 140 non ce l'ha. Il 440 invece ce l'aveva quella luce lì. Il 440 c'era, certo. Forse quando vai sulla portata del palazzo ti si accende la spia della portata. Sì, infatti il 440 ce l'ha. Va bene, dai, comunque io l'ho provato anche da poco, perché di tanto in tanto lo accendo proprio per tenerlo insomma sempre attivo, e ho provato anche quello, perché provo tutto quando lo accendo una mezz'oretta acceso e senza mai utilizzarlo a parlare, non me ne frega più di tanto, però proprio per non cercare di perderlo, per così dire, tutto lì. Vai Gianni. Quelli lì vanno accesi, il 440 vanno accesi, perché sennò poi danno problemi, se non li accendi ogni tanto li fai scaldare un po', danno problemi. Poi è fatto bene che lo accendi ogni tanto, ma usalo però, dirai, usalo. Già, non lo spazio dove metterlo, guarda, è troppo grande, per lo spazio che io sto utilizzando io è una cosa troppo grande, è ingombrante, perché cominci quello, alimentatori, col microfono che non ci sta, insomma, è per quello che l'ho messo anche da parte, tanto più che ho questo, un baracchinetto così, e diciamo che mi va bene lo stesso, tanto per fare quattro chiacchiere mi sento ugualmente, non c'è problema. Io ho ambizioni di potenza, non ne ho mai avuto, già lo sai, già mi conosci bene, per cui vado avanti così. 2 watt con un semplice baracchinetto, vai Natali. E io lo stesso, me lo so.